Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Grondona, 200 anni di biscotti, di Andrea Ferro. Questa storia di vita e di impresa inizia tanto tempo fa. Era il 1820. È la storia del biscottificio e della famiglia Grondona. Sboccia in Val Polcevera, a Ponte Decimo, primo entroterra di Genova. All'epoca un paese, oggi praticamente una linea di confine tra la città e la campagna. Orlando Grondona è l'amministratore delegato dell'azienda. Così inizia il suo racconto. Per capire cosa succedeva 200 anni fa, bisognerebbe un po' conoscere il territorio, che è il territorio della Val Polcevera, che poi andando a monte diventa secca e poi diventa verde. Il Torrente Verde e gran parte della Val Polcevera è uno dei pochi torrenti della Liguria che non sono mai a secco. Questo fatto qui permetteva, in quel periodo là, di poter raccogliere l'acqua per far girare delle ruote, che potevano essere dei mulini, ma potevano fare la corrente elettrica, a seconda dei casi. La zona è stata terrazzata per fare prodotti tipo granaglie fino ad arrivare all'uva, e queste granaglie portate poi a valle a dorso di mulo facevano sì che nascesse dei mulini per macinare sto grano. Il contadino portava giù 2, 3, 4 quintali di grano, se ne faceva macinare un po' lo lasciava in pagamento e se ne tornava su con la farina. Mio bisnonno, per cominciare a differenziarsi un po' dalla concorrenza, ha detto: vabbè, facciamo invece che della farina, facciamo la pasta. Noi abbiamo questi verbali che nel 1820 la Camera di Commercio e questi verbali attestano che questo signore qui, che era questo mio bisnonno, faceva vermicelli. Dalla farina alla pasta, dalla pasta ai biscotti. La caratteristica della famiglia Grondona sta nell'intuizione di differenziare, affinare, usare. E sull'onda di questo DNA imprenditoriale prende forma un nuovo prodotto che con il passare del tempo manterrà le caratteristiche e le qualità nutritive originarie. Siamo alla fine dell'Ottocento. Mio nonno è mancato nel 56 e ha 84 anni, quindi a 20 anni lui faceva già queste robe qui. Ha cominciato a fare il biscotto della salute. Un suo, diciamo, concorrente amico che si chiamava Panarello ha fatto il biscotto del lagaccio e sono nate queste due fette biscottate. Che come tutte le cose che hanno un grande valore e che sono molto valide, quando si espandono diminuiscono un po' di qualità. Lo vale per la pizza napoletana, lo vale per la mozzarella, lo vale per il pesto genovese, e così anche il biscotto della salute è diventata una fetta biscottata. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mantenere le qualità del biscotto della salute. Quindi, che cosa significa? Allora si faceva esclusivamente col lievito madre, proveniente da madre bianca, e quindi con i rinfreschi giornalieri, senza aggiunta di starter e senza aggiunta di lievito di birra. Noi abbiamo un lievito che è formato da due lieviti, Saccharomyces cervicis, da Candida camilleri, ma soprattutto da un lattobacillo, che è il San Francisensis, che spezza la molecola del glutine e rende digeribili questi nostri prodotti per gli intolleranti. Quindi questa è la grande peculiarità dei nostri biscotti, è che a tutt'oggi il nostro biscotto ha questa caratteristica. Lo scorrere del tempo e l'avvento di tecnologie produttive via via sempre più evolute non intaccano il legame imprescindibile con le caratteristiche primordiali del prodotto. Da genovesi, pragmatici, fortemente legati al territorio e alla tradizione e poco inclini a farsi suggestionare da mode e tendenze, la famiglia Grondona tira dritto lungo la propria strada, come ci racconta ancora Orlando Grondona, amministratore delegato dell'azienda. la nostra famiglia, passando da nonno, papà, figlio, adesso ai miei figli, abbiamo cercato di utilizzare, e questa è una cosa molto importante, la tecnologia a favore del nostro prodotto, non fare un prodotto che è frutto della tecnologia. Per cui se una volta si impastava con i piedi, poi si impastava con una vite, poi si impastava con delle braccia tuffanti, abbiamo continuato magari a impastare con le braccia tuffanti, che davano questo benessere, diciamo, alla pasta. Dopodiché è venuta la robotica, e allora dico, se devo spostare dei cartoni va bene che prenda il robot, l'importante è che io dentro i cartoni metta quel prodotto che 100 anni fa si sapeva, come tutti i prodotti dolciari, si sapeva già come si potevano fare. E se pensa che l'uomo in 100 anni ha fatto dei progressi che non ha fatto in 10.000 anni nella parte dei prodotti dolciari da forno, per farli costare di meno e per farli durare di più ha fatto delle schifezze. Ecco, se noi abbiamo avuto un merito è che noi siamo stati coerenti con quello che ha fatto mio nonno, che ce l'ha scritto su un libretto e noi seguiamo le sue istruzioni. Non ha importanza se il nostro prodotto non dura 2 anni, se dura solo 6 mesi, non ha importanza se il nostro prodotto è caro, perché comunque abbiamo un'elite di consumatori che riconosce questo valore e quindi lo paga il prezzo che vale. La concorrenza più o meno c'è sempre stata, poi ci possono essere dei boom, ci possono essere delle crisi, ma quello che, diciamo, contraddistingue la famiglia Grondona, se lei mi permette sto termine che può essere anche un po' banale, è la coerenza. Cioè noi non seguiamo un prodotto che è di moda, senza coloranti, tutti senza coloranti, integrale, tutto integrale, biologico, tutto biologico. Noi cerchiamo di fare il prodotto nel miglior modo che è possibile farlo, secondo le nostre conoscenze, senza attaccarci a delle bandiere che in un momento o nell'altro possono diventare di moda. A metà degli anni Ottanta, la sede originaria dell'azienda è troppo piccola per ospitare uno stabilimento in grado di soddisfare i livelli produttivi sollecitati da una domanda crescente. E così Grondona trasloca, ma di poche centinaia di metri. Il biscottificio resta saldamente ancorato alla Valpolcevera, mentre la fabbrica di panettoni sorge a Torino. E in tempi più recenti l'azienda acquisisce nuovi marchi. Nel 1984 ci siamo trasferiti in uno stabilimento vicino a 900 metri dalla sede storica e siamo passati da 1500 metri a 12.000 metri quadrati, dove potevamo poi svolgere questo lavoro, diciamo, sotto un'area moderna, nel senso del controllo del prodotto, nel senso di poter mettere degli impianti che ovviamente occupano degli altri spazi, anche perché il mercato ci richiedeva sempre più prodotto, ecco. Cioè adesso abbiamo 8 negozi di proprietà, cosiddetti negozi monomarca, dove ovviamente abbiamo tutti i nostri prodotti. Ora ci è capitato di trovare una torrefazione di qualità che è Bocchia, l'abbiamo acquisita perché così abbiamo anche noi il caffè. Ci è capitato di acquisire una società che si chiamava Duca d'Alba, che faceva dei prodotti abbastanza innovativi senza zucchero, e questo è stato di nuovo un ampliamento dell'assortimento. L'ultima acquisizione, non in ordine cronologico ma di importanza, è stata la Bonifanti, che è un'azienda che fa panettoni di altissima qualità. Oggi, dopo 200 anni di storia, il gruppo Grondona fattura oltre 20 milioni di euro, con un'80ina di dipendenti impegnati nei 2 stabilimenti produttivi. La filosofia del gruppo è la filosofia di una famiglia all'interno della quale vocazioni, tradizioni e pure riti si trasmettono di generazione in generazione. Noi siamo la stessa generazione, ma se dovessi sintetizzarlo, lavoriamo con questi due, diciamo, concetti. Il primo concetto è che noi, come famiglia, come dipendenti, come dirigenti, come quadri, mangiamo tutti i giorni i nostri prodotti. Non è una cosa che si può dire a tutte le aziende, ecco. Quindi mangiando già tutti i nostri prodotti vuol dire che riconosciamo questo tipo di qualità. E l'altra cosa molto importante, dato che costiamo il doppio del prezzo di mercato, se noi sapessimo come farli migliori, intendo dire andando a cercare delle materie prime che sono migliori delle attuali, lo faremmo. Saremmo sciocchi se non lo facessimo, visto che il consumatore è già disposto a darci un valore doppio del prezzo di mercato. Tant'è vero che noi non facciamo frullini, facciamo canestrelli, non facciamo fette biscottate, ma facciamo biscotto della salute e lagaccio. Sia mio papà, sia io, sia i miei figli, sia i figli dei miei figli respirano questo tipo di aria, respirano questo tipo di strategia. Si rendono perfettamente conto che oggi il biscotto te lo puoi fare in casa e te lo può fare una multinazionale. Quindi dentro c'è un mare aperto in tempesta che se non fai una specialità, che se non ti distingui, che non hai un valore in più rispetto a quello che è la concorrenza, non hai scampo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.